che ho viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. 10 minuti fa abbiamo deciso questa mattina di raccontarvi la storia di un bambino in particolare, un bambino ben preciso, un bambino che però diventa simbolico di un problema che vorremmo analizzare a più vasto spettro. Il bambino si chiama Luca Cioffi. Avete mai sentito parlare di ombra digitale? L'ombra digitale è quella che noi lasciamo ogni volta che qualcosa di noi viene digitalizzato. Una fotografia, un'email, un nostro SMS. Noi abbiamo un'infinità di dati che riguardano noi stessi e che passano nel mondo digitale. Sembrano leggerissimi, sembrano impalpabili, ma in realtà sono dati che hanno una certa pesantezza. I server che li devono contenere vanno raffreddati e per essere raffreddati consumano energia. Quindi ognuno di noi consuma energia per mantenersi un gigante digitale. L'ombra digitale inizia prima ancora che noi nasciamo. La prima ecografia viene fatta con una macchina digitale che fornisce una foto digitale del fetino che palpita. I genitori, favolosamente attratti da questa idea di covare una nuova vita, cominciano a mandarla via email ai loro amici, cominciano a pubblicarla sui loro profili Facebook, cominciano a metterla nel loro blog. Quindi quell'immagine digitale si propaga, pesa sempre di più, comincia ad accrescere l'ombra digitale di quel bambino. Poi quando nasce saranno i nonni, gli zii, i fotografi, i battesimi, le cresime, i matrimoni, le foto con gli amici, le scampagnate, tutte foto e tutte immagini digitali che vanno a aumentare quell'ombra digitale. Poi ci saranno i documenti che lui produrrà, i documenti che la burocrazia produrrà su questo ragazzo. Insomma, questo ragazzo ha un gigante alle sue spalle. Ogni bambino ha un gigante dietro le sue spalle. Ma in realtà, nel caso del piccolo Luca Cioffi, questo gigante è smisurato è ragione estremamente superiore rispetto alla media. Luca Cioffi è nato ieri mattina. Luca Cioffi ieri pomeriggio alle 14 è stato rapito da una signora che si è finta infermiera, che è andata dalla madre dicendo: bello, questo bambino le ha cambiato il catetere, le ha controllato la pressione, vestita da infermiera, un'impeccabile infermiera. Poi gli ha detto: adesso il bambino lo portiamo al nido. È sparita con questo bambino. Improvvisamente si è propagata e cresciuta in maniera esponenziale l'ombra digitale del piccolo Luca Cioffi. Tutta Italia è stata in apprensione ieri sera davanti alla trasmissione Chi l'ha visto, nell'attesa di capire cosa fosse successo a questo bambino. Con la mamma e il bambino c'era la sorella della madre, per cui questa persona si è inserita nella stanza e con una scusa di portare il bambino forse a fare un prelievo nel nido, perché il nido non lo teniamo con i bambini dentro, i bambini stanno vicino alla madre, il nido sta solo per eventi eccezionali oppure per problemi di prelievo o altre cose. E quindi ha pigliato questa culletta e poi ha preso il bambino dalla culletta, ha lasciato la culletta in una stanza ed è volata via con il bimbo. Io faccio appello a questa persona di restituire subito questo figliolo, questo bambino deve tornare subito dalla madre, che ha bisogno di lei. Quindi questa persona che ha preso il bambino, che si è fatta anche riconoscere perché non si è nascosta, lo affidi a qualcuno più presto, in modo che questo bambino venga recuperato e venga restituito all'affetto materno e paterno. Questo era l'appello del primario dell'ospedale Nocera Inferiore, dove appunto era ricoverata la puerpera e dove era stato rapito questo bambino. Vedete, il sistema di sorveglianza dell'ospedale non aveva, probabilmente adesso non è una fattispecie che interessa a noi questa mattina, non aveva dato immagini dell'entrata e dell'uscita di questa signora, però è stato possibile ricostruirne gli identikit. Esiste una trasmissione nella televisione italiana da decine di anni che Chi l'ha visto, che ha subito preso l'operazione recupero del piccolo Luca Cioffi, ha cominciato a diffondere televisivamente nella serata di ieri, una serata di grande pathos, con il padre, un militare tornato dalla campagna del Libano, con la madre, con i parenti, con i primari, con tutte le persone che parlavano della scomparsa del piccolo Luca Cioffi, che probabilmente dormiva tranquillo nella sua cullina nell'abitazione della sua rapitrice, di cui ancora non si sapeva nulla, sapeva soltanto che aveva un volto. Questo volto è stato presentato in televisione. Gli italiani stanno scrivendo messaggi per voi, per lei e per sua moglie, i bambini non si toccano. E io vorrei sapere da Cecilia se ci sono delle telecamere che hanno ripreso qualche cosa lì in quell'ospedale. Cecilia, c'erano delle telecamere o no? Le telecamere di videosorveglianza c'erano, ma sono 3 mesi che sono fuori uso, quindi purtroppo anche questo aiuto che poteva esserci per ritrovare... Scusami, scusami Federica, ma qui c'è qualcuno che dice questo è l'ospedale di Nocera. In realtà alla tragedia si è aggiunta anche questa ulteriore beffa, che le videocamere di sorveglianza non erano in funzione. Cecilia, ma qualcuno ha visto questa donna uscire? Perché non è possibile che sia uscita con un bambino così senza che non sia stata notata da qualcuno. C'è qualche altro testimone? Io credo che su questo ti può rispondere Fabio. Questa è una delle cose che abbiamo avuto come certezza. Allora Federica, in questo momento... Guardate quante fattispecie coincidono nella storia, nell'epica del piccolo Luca Cioffi, che già è protagonista di un incrocio, di un'infinità di problemi che stanno attraversando la contemporaneità, il nostro paese, la nostra emotività. È stato rapito, quindi la sua ombra digitale si è interrotta laddove gli strumenti di rilevamento delle tracce digitali di chiunque passasse, che in un ospedale probabilmente sono indispensabili. Viviamo in un'epoca in cui siamo attanagliati in una sorta di discrimine fra la lussura, l'estrema e fantastica vertigine di essere sempre ripresi, di essere sempre visibili, di essere sempre al centro di un grande spettacolo in cui, se vogliamo, noi possiamo addurre, imporre, pastellare elementi che rendano epico ogni nostro passaggio, e il terrore, la paura di essere ripresi. Ma non andavano le telecamere, non funzionavano. Dietro voci di protesta, questo è l'ospedale Caldarelli, via dicendo, quando in quel momento chi vuole fare la protesta sindacale era completamente disinteressato dell'esito della vita di questo bambino, voleva approfittare del suo momento per mostrare il disservizio. Ma la grande produttrice di realtà che è la televisione, la grande mediatrice di realtà che è la televisione, ha fatto sì che qualcuno riconoscesse in quell'identikit fatto a mano attraverso la più analogica delle metodologie una signora, una tranquilla signora di 42 anni, già madre di due figli, separata, con una storia in corso con un uomo, che si era presa questo bambino semplicemente per ingannare il proprio innamorato, amore e passione, dicendogli che aveva avuto un figlio da lui. Non sa come adesso, perché è ancora sotto interrogatorio, la fattispecie è molto complicata, ma questa donna aveva preso un figlio per usare, un figlio di un'altra donna, per usarlo come arma di ricatto, come elemento scardinatore di un rapporto, e probabilmente non aveva l'esito che lei avrebbe voluto. Anna Rita Buonocore, che è stata arrestata da carabinieri e polizia grazie alla segnalazione di un medico che l'ha riconosciuta in fotografia guardando il televisore, avendola visto in questo ospedale. Questa donna, tra l'altro, pare abbia detto al marito, al compagno dal quale era separato, dopo aver portato a casa questo bambino e dopo che per mesi aveva finto una maternità, vedi, ha detto al compagno, finalmente sono riuscito a darti un figlio. Probabilmente è questo il gesto, l'atto di follia di questa donna, che sta ancora raccontando, sta cercando di spiegare il perché di questo folle gesto. 800240024. Mi sono preso un po' di tempo per raccontarvi la storia, perché non è detto che tutti ieri sera avessero passato la serata davanti a chi l'ha visto, ho detto che tutti oggi abbiano guardato i giornali, enormi titoli, il giornale addirittura titola "Rapito bebè, il mostro è donna", il mostro è donna in questo caso. Ma poi un'infinità, oggi questa storia avrà strascichi emotivi, già vedo sul Corriere della Sera, pensate alla velocità che hanno gli organi di informazione, anche quelli tradizionali, nel rappresentare tutte le fattispecie di un fatto che è così denso di tanti elementi che toccano appunto la nostra emotività: il bambino innanzitutto, la mamma, la folle che ruba il bambino, l'ospedale senza telecamere. Già sul Corriere della Sera c'è la piantina dell'ospedale, falegnami attrezzisti di chi la di porta a porta stranno lì con il seghetto, il compensato e il vinavil a preparare il plastico per Bruno Vespa. Già me l'immagino questa sera come sarà bello vedere la cullina che passa, che esce, il bambino, la telecamera occultata e via dicendo. Ma cos'è che voglio tirare fuori da dietro questa storia qua? Che è una storia abbastanza, devo dire, rara. Il Corriere della Sera oggi cita come precedenti di neonati rubati nella culla, che è un elemento romanzesco e fantastico. Quante storie di neonati scambiati, rubati, presi ma più ridati, o presi e ritrovati dopo tanti anni, hanno appassionato gli scrittori. Ma ci sono pochi casi, ne cita il Corriere della Sera semplicemente quattro: uno del 79 a Imperia, uno dell'83 a Catanzaro, uno dell'86 a Vittorio Veneto e il 25 aprile 96 un altro ad Alzano Lombardo a Bergamo. Quindi è abbastanza raro, perché sa, un bambino solo appena nato in un ospedale abbastanza sorvegliato. Ma perché questa donna ha preso il bambino? Facciamo delle ipotesi. L'ha preso perché, per quello che sappiamo adesso noi, aveva necessità di mostrare al suo compagno, l'uomo probabilmente le amava, desiderava o ambiva di folle passione, che lei aveva avuto un frutto concreto del loro amore, per incastrarlo, per ricattarlo, per farlo sentire in colpa. Non so quale sia la ragione, ma questa è una fattispecie riscontrabile. Quanto un bambino diventa arma di ricatto in un rapporto di coppia? Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Giuseppe Neri, ricordo, neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Beppe, questa storia che abbiamo raccontato questa mattina, perché nell'immaginario ne parlano in tutti i bar, in tutte le strade, serpeggia il bambino rapito, che bello, però secondo me ha dei risvolti che vale la pena di approfondire. Perché una mamma, già mamma, rapisce un bambino di un'altra donna e lo porta come se fosse una sorta di arma potentissima per ricattare un uomo? Beh, la prima risposta che mi viene in mente è perché, anche se forse ed è un bene che avvenga questo, noi non ce ne accorgiamo quotidianamente, ci sono tante mamme che hanno problemi molto seri dal punto di vista del loro equilibrio psichico e che sono mamme, sono mogli, sono infermiere o insegnanti e lavorano tutti i giorni, e finché la soglia del comportamento non raggiunge un certo livello che è percepibile agli altri, tutto questo è qualcosa che può lasciare qualche indizio, qualche traccia nelle relazioni che queste persone, a loro modo e nelle circostanze opportune, costruiscono. Quindi la prima spiegazione è che non è un qualcosa che è comparso così come un evento. Tutti i giornali dicono che aveva dei comportamenti normalissimi. Sono andati a casa di questa signora, non per fermarmi al fatto, ma per stabilire degli elementi comuni. Era tutto perfettamente ordinato, c'era una culletta, il bambino stava benissimo, era iperprotetto. Tu parlavi giustamente della costruzione mediatica dei mostri o delle immagini. Quello che bisogna capire è che i malati di mente, quelli che ovviamente hanno alcune sintomatologie e alcuni disturbi, sono persone che per altri aspetti, casomai quelli più ordinari, più quotidiani, cioè quando non vai a indagare in maniera selettiva e perspicace alcuni aspetti, ciò che si propone come immagine di sé può essere assolutamente confondibile con quello che noi consideriamo la norma. La sensibilità di chi deve cogliere queste cose va appunto su temi specifici, che in questo caso potrebbero essere toccati se noi avessimo possibilità di parlare con il compagno. Questa donna mi risulta che avesse dei figli, ha sicuramente dei genitori, sono queste le persone, ma nel nostro sistema ovviamente è opportuno che questo venga tutelato dalla privacy e faccia parte. Vediamo se riusciamo a fare un passo avanti. Di qui io vorrei capire, la soglia della follia si appalesa in questa donna perché è andata a rubare un bambino in un ospedale, è una cosa che non si fa normalmente. Facendo un passo indietro, quale potrebbe essere una rappresentazione altrettanto patologica in cui un bambino, un figlio già concepito, partorito o semplicemente allucinato o immaginato, minacciato, quante donne fingono di essere incinta, dicono che sono incinta, in quanti rapporti c'è questa sorta di vessazione che passa attraverso un bambino? Beh, sicuramente la prima cosa che mi viene in mente, ed è pratica quotidiana per ciascuno di noi, è l'uso, soprattutto se sono piccoli questi bambini, che si fa dei bambini quando un rapporto di coppia istituzionale, cioè un matrimonio, si rompe. Quindi i propri figli, ecco. I propri figli, ciascuno di noi nella sua esperienza può vedere come in certe circostanze l'aggressività che uno dei due partner vorrebbe esercitare sull'altro si trasforma in meccanismi di sequestro, di ricatto, di vessazione del partner con lo strumento che è capace di arrecare il danno affettivo maggiore, che è l'uso, la custodia o la negazione della custodia o la gestione della custodia dei figli. Sentiamo un attimo Giorgio. Sono nate le associazioni dei papà che si vogliono tutelare. Sì, quando poi si passa all'aspetto di soluzione legale di un rapporto di coppia, poi ci sono le associazioni dei padri, si sentono vessati, maltrattati, dicono che in realtà il figlio è l'arma di ricatto perché la moglie o l'ex compagna abbia un trattamento sempre privilegiato nei confronti del padre. Anche questa è un'altra questione molto complicata. Giorgio, sentiamo Giorgio, il primo ascoltatore. Buongiorno. Io trovo allucinante che sia possibile entrare e uscire da un ospedale come niente praticamente. Cioè qui bisogna che il Ministero della Salute o il Ministro dell'Interno faccia una verifica di tutto. Sì, ma lei questo fa ricadere tutta la mia domanda su un aspetto importantissimo e grave, ma che poco a che fare con quello di cui stiamo dicendo. È vero, c'è anche questo problema probabilmente, che esistano delle maglie a volte, ma... A meno che non sia un cavò di una banca, un ospedale anche molto frequentato, secondo me non dovrebbe essere così, ma può esserci questo momento di disattenzione in cui una signora vestita da infermiera poi giri con un bambino senza nessuno chieda a lei dove l'hai preso questo figlio. Non mi sembra questo però il punto fondamentale, o perlomeno non è quello che vorrei trattare questa mattina. Questo è il punto fondamentale. Beh, per lei è, punto è uno dei punti fondamentali, non è quello che stiamo trattando questa mattina. Io questa mattina mi pongo l'accento sull'aspetto simbolico della necessità di prendere un bambino per compiere un gesto. Poi nella fattispecie e nella tecnica di come si è preso, le responsabilità di perché se l'è preso, è importante, ma non interessa a me parlarne questa mattina. Grazie. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, ciao e buongiorno a te. Oh, Silvana Mario, medico, scrittrice di genere fantasy e saggista. Vediamo se riusciamo a riportare il tema sul piano su cui voglio portarlo questa mattina. Non voglio eludere nessun tipo di informazione a chi ascolta, ma in questo momento sapere il perché l'ha rubato, perché tecnicamente non c'era una guardia a fermarla all'uscita, a me in questo momento non è il punto che voglio analizzare. Il punto che voglio analizzare è un altro, tu l'avrai ben capito, Silvana. Sì, il punto fondamentale è che il bambino rubato, il bambino scambiato, da sempre è il nostro incubo. Un incubo che non era così terribile nei momenti in cui non esistevano le maternità, quindi le madri si tenevano il bambino vicino 24 ore su 24 e dopo pochi minuti lo riconoscevano dai lineamenti, cosa che adesso stiamo ripetendo grazie al grooming. Noi abbiamo una prima storia che riguarda il bambino scambiato con la storia di Re Salomone. Si trovano due madri. Una è la madre biologica del bambino, l'altra è una madre con l'utero vuoto perché il bambino l'ha perso oppure non è mai riuscito a averlo, non importa. O non ha quel bambino perlomeno. E non ha quel bambino e cerca assolutamente di mettere le mani sul bambino dell'altra. Nelle fiabe abbiamo poche storie di bambini scambiati. Però guarda Silvana, scusa se mi permetto. Per dire quanto è calzante il tuo esempio, nell'interrogatorio che leggo adesso questa mattina della rapitrice del bambino, c'è un tentativo di dire che c'è un accordo fra loro, dice lei che me l'ha affidato, eravamo d'accordo, l'avrei usato semplicemente per intimorire, spaventare, sedurre, riprendere a me il mio uomo, poi gliel'avrei ridato. Quindi è come il giudizio famoso salomonico, nessuna delle due mamme in fondo ammette che il figlio non sia perlomeno oggetto di un patteggiamento, si salva in questa maniera, dice ma me l'ha prestato. Sì. Poi il bambino scambiato l'abbiamo in due occasioni. Prima, il mio bambino è malato, ne voglio uno sano. Da qui nasce tutta la mitologia che purtroppo ha fatto anche molti feriti perché era una delle cause dei processi per inquisizione, molti processi per stregoneria sono state fatte allevatrici. Dato che Dio è buono, se nasce un bambino malato, ritardato o storpio, deve essere stato scambiato col figlio del diavolo. Quindi molto spesso i bambini storpi o malati o comunque gravemente lesi venivano considerati figli scambiati. Su questo è nata anche una grossa mitologia. Un altro punto dove mi conviene scambiare il bambino è se l'altro è il figlio del re. Oppure quando il figlio del re è morto, perché in qualche maniera io devo avere un bambino, mi salta tutta la dinastia e poi rischio di avere delle guerre di successione. Quindi ci sono due bambini che sono molto dubbi. Uno è il figlio di Maria Stuarda, il quale Edoardo VI non somigliava per nulla alla madre e pare che poi nel castello dove era stata rinchiusa la madre si sia trovato murato in un muro uno scheletro di un infante in un mantello su cui c'è la lettera Gilunga. E il secondo è Vittorio Emanuele II, certo. Diciamo, che somigliava poco a papà Carlo Alberto, che mi pare fosse. Sì, era piccolino, mentre il padre era imponente, sì. Con i baffi. Si diceva che quello fosse frutto di uno scambio, perché era morto il vero re, c'era una leggenda. La nutrice, cioè, in realtà la genetica ci dice che i figli possono anche somigliare pochissimo ai genitori o nulla, quindi insomma. Non sappiamo quanto questo sia vero. Per poter avere una logica di bambini scambiati abbiamo bisogno di maternità. Quindi c'è un'incantevole storia recentissima. Senti Silvana, posso interromperti perché non vorrei metterti fretta. Devono andare le notizie dell'informazione dalla borsa. Fra un istante riprendiamo la tua incantevole storia 800240024. Avete visto, dalla storia del bambino rapito cerchiamo di allargare il nostro punto di vista e capire cosa ci sia dietro la necessità, la volontà, il desiderio, l'allucinazione di prendersi il figlio di un'altra e fingere che sia proprio. Melog 2.0. Per gli inquirenti è stato fondamentale seguire alcuni indizi, in particolare ripeto, il modo con cui la donna approcciava la paziente, il che ha fatto escludere immediatamente si trattasse di una folle o di una sprovveduta, e poi la conoscenza dei luoghi, perché la donna con questo bambino si è mossa assolutamente a suo agio, non ha dovuto cercare vie di fuga e si muoveva tranquillamente nei vari reparti, e infatti è uscita in maniera estremamente rapida, senza alcun imbarazzo. Era una donna che sapeva come gestire sia i territori, ma soprattutto anche le situazioni. Il nome della donna è Anna Rita, la donna ha circa 40 anni ed è infermiera. Io sono in questo momento con... Ecco, l'esito della vicenda di cui stiamo trattando, del piccolo Luca Cioffi, nato, rapito appena nato, è ritrovato soltanto 12 ore dopo essere stato rapito, quindi non necessariamente protagonista di un grande episodio di pathos nazionale. Avete sentito, rispondo a tutti quelli che mi stanno scrivendo su Facebook, concentrandosi sul fatto che non dovrebbero uscire bambini dagli ospedali senza che nessuno se ne accorga. Questa signora era un'infermiera, si muoveva con grande lucidità e con grande maestria, e vedere un'infermiera che esce con un bambino in ospedale non fa scalpore, non, una cosa abbastanza normale. Il punctum di questa vicenda non è tanto l'esempio di disservizio che probabilmente sarà stato, ma quanto riflettere sul fatto del bene bambino, del bene neonato, bene spendibile non soltanto da un punto di vista di lecito regolare svolgimento della propria affettività, della propria responsabilità genitoriale. Il bambino è qualcosa di molto più importante oggi. I bambini vengono desiderati, vengono allucinati, ci si accanisce per farli nascere, si va all'estero, si seguono, ma non voglio con questo criticare nessuno chi lo fa, ma è un dato di fatto, si seguono tecniche fantascientifiche per avere comunque a tutte le età, in tutte le situazioni, in tutte le possibilità di espressione, di assortimento della coppia, la benedizione di avere un figlio. Uso benedizione in termine improprio, perché non è in realtà è questo. Avere lo status del possesso di un figlio. 800240024, il tema del giorno è proprio questo: quanto l'importanza, la radicale importanza di un figlio diventa un elemento di forza, un punto di forza per risolvere i propri personali problemi o problemi di relazione. Un'ultima annotazione: ci immaginavamo io e Fabrizio Intonti, vedendo l'attenzione che ebbe la trasmissione televisiva di ieri sera, sentendo nelle nostre, nelle altrui famiglie quanto sia stato seguito con spasimo e con tensione questo episodio, vedendo le pagine dei giornali, vedendo il moltiplicarsi delle notizie in internet, questo fosse un episodio che appassionasse il pubblico. Invece non, nessuno gliene importa nulla. Il vero limite, la vera colpa indiretta del piccolo innocente Luca Cioffi è quello di essere stato ripreso soltanto una manciata di ore dopo la grande attesa. Se Luca Cioffi non fosse stato ritrovato questa mattina, non avremmo altro in Italia che gente in piazza che cerca, che implora, che chiede, che vorrebbe e che desidererebbe far parte del grande spettacolo. Beppe Neri, buongiorno, sei ancora lì? Mi sembra che tu abbia proprio colto nel segno, nel senso che il cuore del discorso è il grande spettacolo, ma il piccolo spettacolo che si consuma nelle famiglie di queste persone che hanno questi gravi disturbi di personalità non è uno spettacolo senza conseguenze, perché questa gente, che poi per alcuni aspetti funziona bene in un sistema contenitivo, cioè in un posto di lavoro in cui si attirano delle mansioni elementari e ripetitive, vanno molto bene, ma il problema di queste persone è che hanno dei disturbi di personalità che sono accettabili per le persone stesse, noi li chiamiamo egosintonici, ma poi diventano alloplastici, cioè vuol dire la persona tende a cambiare l'ambiente. Quindi se l'ambiente non mi ha dato un figlio, io creo la situazione in cui il figlio esiste, anche se lo devo andare a prendere in ospedale. Poi io sono 31 anni che lavoro negli ospedali, non possiamo mettere un carabiniere davanti a ogni stanza, basta vedere qualsiasi sito. Ma come fai a controllare una mamma che esce con un bambino, soprattutto se è una persona che frequenta quell'ospedale? E poi una che conosce i meccanismi, le procedure, i tempi e gli spazi di una struttura ospedaliera come l'infermiera, questa signora mi dicono che lavori al Cardarelli, che è un grande ospedale di Napoli, ovviamente sa, perché ha una sua lucidità perfetta nel perseguire l'obiettivo, come allestirsi, vestirsi, seguire certe procedure, interagire con la mamma. Sì, ma il piagnonismo italiano che assolve di ogni responsabilità individuale, oggi non, i pochi messaggi che mi arrivano su Facebook sono tutti lì, non dovrebbe in un ospedale farsi... uscire una mamma con un bambino, chiaramente tutti sono pronti. Metteremo i metal detector all'ingresso, ma non mi sembra una cosa, sì, ragazzi. O gli mettiamo il piastrino come i cani per ritrovarli, cioè fammi capire. No, i bambini appena nati hanno e devono avere un loro braccialetto di plastica sigillato che identifica il figlio e la mamma. Sì, ma non c'è un GPS dentro che possa identificarlo. a distanza. Quindi, tornando al punto, dicevi, il bene bambino a questo punto, per la tenacia con cui viene ricercato, con cui viene protetto, che non corrisponde poi a una necessaria e concreta affettività costruttiva nei confronti dei figli, lo sappiamo bene quanto, se no ci sarebbero tanti problemi di interazione generazionale, diventa qualcosa di molto forte, qualcosa che corrisponde a uno status, a un possesso, a una bella automobile o a una casa in un quartiere elegante. Assolutamente, ma io ho dei casi di signore che hanno pervasivamente, persecutoriamente cercato qualcuno con tutti i sistemi leciti e illeciti che gli desse l'opportunità, parlo di difficoltà di fecondazione, quindi di avere un figlio, per poter poi utilizzare questa loro maternità nei confronti del donatore di seme con cui non avevano casomai più un rapporto stabile, ma che nel momento in cui diventava biologicamente il proprietario del DNA che si perpetuava nel figlio nato in Ucraina o che ne so io nelle Filippine, allora diventava assolutamente appetibile come interlocutore, e nell'ambito di questa relazione fra adulti, la madre e il padre biologico, il figlio diventava un bene strumentale secondario finalizzato soltanto al perseguimento dello scopo di ottenere benefici io madre dal padre del bambino. Sentiamo Alessandra da Lucca. Alessandra, buongiorno. Alessandra Lucca è caduta, allora Alessandra da Milano. No, ci sono, pronto. Ah, c'è Alessandra Lucca, eccola, perfetto, eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare un piccolo intervento sempre sull'argomento, però non proprio del bambino appena nato, quanto sul tema generale della trasmissione. Spesso i figli sono utilizzati in caso di divorzio, separazione di genitori e divorzio, sono utilizzati come mezzo di, come si può dire, non di scambio, ma di ferire l'altro coniuge. No, no, come armi letali, vengono indottrinati dai genitori. Come armi veramente letali per ferire l'altro coniuge, e anche quando i figli sono grandi e magari possono avere delle piccole fragilità emotive, piccoli disturbi psicologici, io non parlo di grandi cose. Ed è questa una cosa, purtroppo si pone sempre l'attenzione sui bambini, cosa che... No, ma avviene, penso, anche nelle coppie costituite che rimangono indelebilmente unite per tutta la vita, che i figli però sono esito delle tensioni fra i genitori, è gioco forza. Sicuramente, ma le valenze che si mettono in atto contro l'altro genitore in un divorzio, quando anche i figli sono grandi, sposati e con figli, sono terribili. E su questa cosa, mentre sui bambini ci sono delle leggi che in qualche modo possono aiutare a risolvere il problema, in questo caso le leggi non ci sono più, e sono i cosiddetti rapporti sotterranei che avvelenano non solo le persone, diciamo la ex coppia, ma purtroppo avvelenano anche i figli. E i figli avvelenati fanno male anche a 30 anni, 40 anni o altro. Silvana De Mari, esperta in fantasy, i figli avvelenati fanno male, dice la nostra ascoltatrice. Tu ci stai raccontando un episodio però di bambino rapito, sostituito o favolisticamente elaborato rispetto a quello che noi diciamo che appartiene alla concreta realtà. Beh, non è così distante, perché comunque il figlio che diventa oggetto e non più persona. Uno dei motivi per cui adesso c'è... Beh, tu ci hai insegnato spesse volte che le favole ci dicono che i figli ce li mangiavamo pure quando c'avevamo fame, quindi... Ce li mangiavamo pure, questo è assolutamente vero, e adesso continuiamo a mangiarci le loro psiche. Quando un genitore parla male dell'altro genitore sta commettendo un crimine. Il ritorno al fantasy ha numerose motivazioni, e anche il ritorno a un mondo dove ci si rivolgeva ai genitori dando del voi, dove non era permesso mancare di rispetto, perché io non posso essere fiero di me stesso se non sono fiero dei miei genitori. Il punto numero, il comandamento numero 5 rispetto al padre e alla madre, che esiste perfettamente anche nel buddismo, noi abbiamo nei confronti dei genitori un debito di gratitudine, non so se ci garantirà il paradiso, ma so di sicuro che ci evita l'inferno in terra, perché io non posso essere fiero di me stesso se non sono fiero dei miei genitori. Non è possibile essere un cattivo coniuge e un buon genitore, perché nel momento in cui ho sputo in faccia a mio marito distruggo nell'immagine di mio figlio l'immagine di suo padre. Quindi una cosa importante è ricordarci di parlare bene dei nostri coniugi. Non c'è bisogno di dire papà è un santo, basta dire guarda che bella albicocca ha comprato papà, in qualche maniera che i nostri figli possano essere fieri dell'altro coniuge, in qualche maniera lo saranno anche di noi, e questo è il maggiore dono che noi possiamo fare, altrimenti noi continuiamo a rubarci i bambini, a rubarci la loro psiche o a rubarci il loro sogno di poter avere due genitori. E fa sempre parte del fatto che adesso il bambino è comunque vissuto più di prima come un oggetto voluto. Quindi, dai ragione al senso di questa trasmissione, che alla fine stiamo vedendo e allucinando il fatto che il bambino non abbia più la funzione che ha sempre avuto di frutto di un atto comunque di volontà o un atto di casualità, perché non sempre i figli vengono quando uno li vuole proprio, ma comunque sia poi qualcosa da cui dover dare delle sue gambettine per camminare nella vita, ma diventa sempre più un genere di possesso, un gadget, quasi che fosse il nostro iPhone così meraviglioso, utile per metterci in contatto con il mondo o per sottrarci al mondo. 800 24 0024, sono partiti dal caso del bambino di Nocera Inferiore, Luca Cioffi, rapito e ritrovato soltanto dopo poche ore, che però ha scatenato, almeno nel momento del rapimento, un grande afflato, un grande senso di partecipazione. Ma da lui prendiamo l'esempio per determinare il reale spessore, il reale valore oggi di un figlio per una famiglia, per una coppia, per un uomo, per una donna, che può diventare un oggetto pericolosissimo per incrudire, per inasprire o per sgradevolmente alterare quelli che sono i rapporti tra i genitori. Altresì, come ci dicono i nostri ospiti, la grande attenzione che occorre fare non far sì che l'esito di noi stessi, che sono i nostri figli, sia irrimediabilmente colpito, ferito e condizionato nella sua vita da quelle che sono le nostre tensioni. Insomma, oggi gestire un figlio sembra molto complicato, anche rispetto all'aspetto del figlio rapito. Esiste un grande immaginario che ieri è stato soltanto lambito. Vedo anche una notizia data oggi da Lanza di 3 ricercati che hanno tentato di rapire un bimbo di 1 anno a Prato. Subito vengono ricercati i campi rom, i campi degli zingari. Anche ieri si è detto, fra le tante ipotesi, della possibilità che sia stato rapito dai rom. Senza entrare nello specifico di quanto statisticamente siano addebitabili ai nomadi il furto e il rapimento di figli, esiste nell'immaginario questa idea che qualcuno possa rapire un bambino. Silvana De Mari, sempre esistito dagli orchi, dalle persone cattive, dagli esseri immondi e via dicendo. Ma in realtà esisteva nell'immaginario collettivo perché esisteva veramente, dato certo. Che il bambino in qualche maniera era una ricchezza, visto che lo si metteva a lavorare, prima o poi cresceva e magari se era una bambina sarebbe diventata una donna. L'abitudine in Cina di fasciare i piedi, di storpiare i piedi alle bambine, nasce come meccanismo di difesa perché i mongoli razziavano e rapivano le bambine, visto che loro erano sempre senza donne, dato che nei nomadi c'è una mortalità infantile altissima e di donne altissima, e avevano notato che le bambine zoppe si salvavano, non venivano rapite. Peraltro ci sono 2 episodi tragici. Il bambino ormai è comunque fatto da un uomo e da una donna, magari l'uomo ti ha violentato, ma è comunque stato un uomo, mentre adesso noi stiamo sostituendo il corpo dell'altro, quando non lo vogliamo, con delle parti, lo sperma comprato via internet o l'utero affittato. E ci sono gli uteri affittati in India, quindi queste donne che portano gravidanze di bambini che non saranno loro, ma il bambino impara a riconoscere la voce della mamma 2 mesi prima di nascere, e quindi tutti i bambini che non sono allevati dalle mamme che li hanno portati devono elaborare un lutto. C'è un'idea molto disneyana dell'adozione, il bambino adottato ha un lutto gravissimo. E io credo che l'apogeo sia stato raggiunto in Nigeria, dove si è trovata una fabbrica di bambini, c'erano delle signore incatenate a dei letti che quando finiva una gravidanza veniva di nuovo messa incinta e ne facevano un'altra, perché il bambino oggi ha acquistato un valore nel terzo mondo a causa delle adozioni a distanza. Non esiste nulla, neanche un gesto di compassione e tenerezza, che non si possa essere trasformato in un crimine. Guarda, ti dirò, Silvana, a me è arrivata una singolare lettera l'altro giorno, penso fatta in serie, anche se lievemente personalizzata, la manderanno a tutti i giornalisti, di una ragazza di non so quale scuola nigeriana che mi diceva che gli servivano i soldi per finire il suo corso, se non avesse avuto i soldi non finiva il suo corso. È tutta una storia bellissima, ma era talmente bella, talmente ben scritta, che mi ha fatto pensare a una sorta di catena preordinata giocata sulla compassione, sulla pietà, sul senso di colpa, e anche quello mi dava l'idea di una industria. Beppe Neri, quello che dice Silvana De Mari, quanto è plausibilmente percepibile oggi poi nelle sensazioni, nelle patologie, nelle persone che tu vedi, ascolti, senti, nella tua esperienza, cioè il fatto che il figlio si sta spostando verso qualcosa che appartiene ormai a una sorta di catena di fabbricazione esterna alla nostra esperienza individuale? Beh, la demaria è una cosa molto giusta, che è l'altra faccia della tecnologia e industrializzazione dei processi riproduttivi, cioè nel momento in cui uno dei passaggi dell'avanzamento, delle nuove conoscenze in medicina è la possibilità di avere sempre nuove tecniche, le più mirabolanti, in cui il seme dell'uomo viene dalla California e l'utero in affitto sta nel Kamchatka e poi il bambino crescerà a Città del Capo, tutto questo è evocativo del fatto che la responsabilità delle persone, la presa in carico di un bambino, di una vita che nasce da parte di un individuo, è sempre più sullo sfondo e lontana, e quello che invece prevale è da un lato la possibilità di utilizzare tecnologie sempre più avanzate e dall'altro la mancanza di un rispetto per il valore che la persona, che è il bambino che sta nascendo, dovrebbe avere, anche quando è un figlio nostro che è nato normalmente, perché come dicevamo prima, se ho una storia con uno, io donna, e penso che il fatto di dire che sono incinta e che poi nascerà un bambino potrà essere utile alla stabilizzazione o alla destabilizzazione di questo rapporto, ecco che se non sono particolarmente stabile dal punto di vista psichico, me lo vado a procurare questo bambino, che diventa l'icona, il simbolo del fatto che esisteva un legame profondo con quest'uomo. È sempre un discorso che va al di là della capacità di interpretare in maniera banale, ma che risente secondo me molto dei devastanti effetti di questa comunicazione. Diciamo la realtà, Beppe, è reciproco, se no diamo sempre tutta la colpa alle donne. Sì, le donne che si fanno mettere incinta, ma tanti uomini che in un momento di crisi di coppia vorrebbero mettere incinta la loro compagna, così la leggo, a me è abbastanza diffuso. Assolutamente d'accordo, ma è sempre un'invasività e una prevaricazione dell'individualità dell'altro. Sentiamo Giuseppe da Marina di Massa. Sì, buongiorno a tutti. Nulla, io comunico al mondo di essere diventato nonno da pochissimo. Sono un giovane nonno, tra l'altro in una circostanza direi un po' particolare, perché io non avrei mai immaginato di partecipare così attivamente a un evento del genere. E questo evento comunque ha portato nella mia famiglia e nella nostra famiglia, nella famiglia anche del ragazzo, un grande senso di gioia, un grande senso di appartenenza. Sì, ci fa piacere. Ci fa piacere questo, ma riguardo a quello che noi dicevamo. Riguardo a quello che voi dicevate, io cito così umilmente, sto seguendo la tesina di mia figlia che quest'anno farà la maturità, di un scrittore, founder. La mamma del bambino? No, una mia seconda figlia, in cui appunto l'autore del Piccolo Principe, per intenderci, non riesco a pronunciarne il nome. Saint-Exupéry. In cui appunto tutti quanti noi dovremmo rivedere il fanciullo che c'è in noi. Benissimo. A proposito di questa brutta notizia che alla quale... Mi dispiace, la fermo perché ci stiamo affastellando di banalità e vorrei chiuderla un pochino più in alto questa trasmissione, ma la sigla mi dice che in realtà la conclusione non è altro che la conferma della nostra prima ipotesi: l'orgoglio smisurato del nonno che ci chiama, fiero del fatto che la sua figlia abbia avuto un figlio, deve comunicarlo alla radio, perché è un grande episodio, quello che in realtà dà esistenza al genere umano da quando esiste. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.